Buonasera, trasmissione natalizia dedicata agli esami che non finiscono mai per i carabinieri, ai complotti, alle ditate, alle martellate e infine alle belle statuine ovviamente.